Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, ultimo capitolo questa sera della serie di puntate dedicate alla vicenda del fotovoltaico e dell'aumento delle bollette dell'energia elettrica. Incentivi troppo generosi, lo abbiamo denunciato tante volte, hanno prodotto una bolla che ha portato i costi per la comunità a 6 miliardi all'anno, cui corrispondono, anzi più di 6 miliardi, questi sono solo gli incentivi, cui corrispondono dei benefici certamente, ma questo non toglie che si sia trattato di una partita nel suo complesso un po' sballata. Mentre gran parte del mercato che si è sviluppato negli scorsi anni in Italia ha però alle spalle operazioni di puro import-export, alcune aziende hanno realmente investito in capacità industriale, quindi nella produzione di componenti e moduli fotovoltaici. Sono queste aziende che più rischiano nell'attuale congiuntura. Di questo ho parlato con Alessandro Cremonesi, presidente del comitato IFI, Imprese Fotovoltaiche Italiane, che ha appena annunciato 1.500 casse integrati dovuti al fatto che si sta semplicemente cominciando a discutere di un nuovo conto energia. Il quinto, per la precisione, con quindi l'effetto incertezza. Sentiamo. L'effetto incertezza ha causato uno stop degli ordinativi, che è la clientela nostra finale, nel momento in cui non ha chiarezza normativa ha preferito stoppare, quindi questo per noi significa interrompere le produzioni. Per difendere le nostre aziende non abbiamo potuto altro che fare chiamare i sindacati e cominciare ad aprire. Quindi 1.500 su quanti, scusi? Sulla produzione di pannelli fotovoltaici più o meno sono circa intorno ai 2.500 e quindi. Quindi 1.500 di 2.500 rischierebbero la cassa integrazione in questo momento, questo che sta sì. Dicendo? Esatto. Sostanzialmente. Senta, io però le devo chiedere una cosa a questo punto. I numeri anche che lei ha citato sono numeri di un comparto che installa 6 gigawatt all'anno di fotovoltaico sul territorio nazionale. Sapete benissimo che è come chiedere che si vendano 20 milioni di autoveicoli in un paese in cui ce ne sono già 35, no? All'anno. Cioè è evidente che questo trend non potrebbe continuare. Non è che rischiamo semplicemente di rimandare di 6 mesi una cosa inevitabile? Siamo assolutamente in linea, in quanto già ancora nella formulazione del quarto conto energia avevamo evidenziato questa problematica. Non è possibile mantenere un trend di crescita a 5-6 gigawatt all'anno. Però questo trend di 5-6 gigawatt all'anno è dato da un fatto speculativo. Potevate accorgervene prima, al quarto, al terzo conto energia, che queste dinamiche c'erano anche 2 anni fa, queste dinamiche speculative, non è che le abbiate contrastate molto a suo tempo? Ma noi abbiamo provato a contrastarle, tant'è vero che quando abbiamo chiesto con forza di avere il Made in Europe significava avere un cap naturale, nel senso che la produzione europea non arriva a 6 gigawatt all'anno. Il problema è che le associazioni in categoria che hanno rappresentato il settore durante quel periodo e che ancora oggi rappresentano in parte il settore erano governate da quelle persone che godevano della speculazione. Se prevale la logica speculativa e non quella industriale come quella che abbiamo fatto noi abbiamo fatto una scelta che è quella di investire sul paese, creare posti di lavoro e creare della tecnologia. Lei tenga conto che la capacità produttiva italiana, sto parlando di quella italiana, non arriva al gigawatt all'anno. Sì, certo. Cioè, insomma, lei dice che bisogna trovare un modo di salvaguardare questa parte sana, questa controparte industriale, pur sapendo che nel complesso bisognerà diminuire come. Assolutamente, qualsiasi tipo di provvedimento che si prenda è un provvedimento che comunque, secondo il nostro punto di vista, sarà sbagliato. Se non si orienta la difesa degli investimenti fatti sul territorio europeo / nazionale. Senta, faccio anche a lei una domanda e adesso poi vedrò cosa riuscirò a utilizzare, temo non moltissimo, ma comunque faccio anche a lei questa domanda. Cosa ne pensa se per esempio si decidesse con piccola imposizione, diciamo quindi con una tassa, un balzello, che vada a gravare su chi ha beneficiato di incentivi molto generosi, secondo il terzo conto energia, magari per utilizzare questi soldi proprio da riversare sul stesso settore fotovoltaico per dargli respiro fino alla grid parity che ormai dovrebbe essere vicina. E cosa ne pensa? Potrebbe essere una strada da valutare in maniera molto approfondita. Non le nascondo che è un discorso che più volte anche all'interno delle nostre direttive abbiamo fatto. Cioè, la struttura reale, se mi posso permettere, è che l'80% della produzione viene fatta da un paese che esporta in maniera totale e riceve anche fondi perduti per poter esportare. La Cina. Di conseguenza, noi stiamo lavorando in un regime di dumping. Se non facciamo altrettanto, bene o male, comunque se non rispondiamo con altrettanta, lei dice, decisione, non c'è niente da fare, ci fanno fuori. Il loro obiettivo è predatorio. Certo. Ussels ha chiuso 2 giorni fa, Salon ha chiuso il mese scorso. Certo che se persino la Germania considera questa una battaglia persa, diciamo facendo chiudere i propri campioni, viene il dubbio che in Italia si rischi veramente di tentare un'impresa impossibile. Ma io speriamo credo di no, invece però, che se si riorienta nuovamente, come abbiamo noi più volte proposto e combattiamo ormai da 2 anni, il sistema verso la ricaduta verso il paese, quindi orientare quello che sono quel poco che è rimasto sugli investimenti che hanno una ricaduta vera e propria, la cosa possa essere ancora salvata. E la Francia sta ragionando in questi termini, la Grecia l'ha già fatto, l'India ha deciso che per quanto riguarda il 2011 il 100% dovrà essere made in India, e la Cina stessa sul mercato interno richiede l'80% di made in Cina. Ma c'è già in fondo, no, un incentivo a questo, da questo punto di vista, maggiorato per chi... Sì, però come è stato elaborato in Italia non ha funzionato, perché hanno permesso con un balzello il fatto che società cinesi prendessero il Made in Europe solo perché fanno una dichiarazione che è simile a un'autocertificazione che comprano un materiale Made in Europe, quindi è come dire che una macchina che viene fatta in Corea, siccome compra un cruscotto in Europa, diventa fatta in Europa. È la stessa cosa dell'abbigliamento, insomma. Questa globalizzazione un po' da dilettanti, vero? Direi proprio di sì. E allora, poi voglio dire, le faccio un numero, sui 5 o 6 gigawatt che sono stati allacciati l'anno scorso, sa quanto ha fatto l'industria nazionale? Non è arrivata a 400 megawatt, ha fatto meno del 10%. Ecco, quindi lei dice che bisogna mettere dei dazi significativi sul fotovoltaico, sulle importazioni dall'estero, e fare in modo che sostanzialmente gli investimenti e quindi anche gli incentivi si concentrino su quello che è prodotto non in Italia, perché questo non si può fare, ma in Europa. Assolutamente sì, e c'era un modo che era quello che abbiamo indicato l'anno scorso, che era un premio sul Made in Europe, che poi è stato stravolto con delle regole, con dei balzelli messi all'uopo. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.